occhi del bambino, gli occhi del bambino, quelli non li danno proprio indietro mai, credimi mai. Ostrica e lampone, sulle mie dita c'eri sempre solo te. Ti davi un attimo e poi ti nascondevi bene. Io l'ho capito che sei sempre stata grande più di me. Ma adesso dimmi com'è andata, com'è stato il viaggio di una vita lì con te. Io spero solo tutto bene, tutto come Rosetta, vade voi da piccole. Stai bene lì con te, stai bene lì con te, stai bene lì con te. Lasciatelo dire, eri di tutti ma non lo sapevano, e tu lo sapevi che facevi con la soggezione. Siamo stati insieme